Ultimi appuntamenti 2022 per Collagene saranno rispettivamente il 2 e il 16 dicembre e io ovviamente torno a parlarne sempre con loro, Carolina Altilia e Alessandra Marolla. Ciao ragazze, bentornate. Ciao, grazie sempre. Partiamo dal primo appuntamento, quello che ci sarà domani, 2 dicembre, appuntamento che ha anche visto, diciamo, un cambiamento un po' all'ultimo e quindi se avete voglia di raccontarci anche questo. È stato un piccolo cambiamento per domani. Il 2 dicembre era prevista la performance box di Federico Vitia e Andrea Trona, ma per problemi, insomma, di salute di uno degli artisti la performance domani non ci sarà e poi sarà riprogrammata per il 2023. Al posto loro, domani alle 20:30 ci sarà Hernán Paulísi. Con una performance dal titolo No fuimos secos para estos tiempos, siamo fatti per questo tempo, che è una performance sonora, come la definisce l'artista, autoliberatoria, di violino e musica elettronica. Domani conosceremo questo artista, che citeremo. E poi l'altro progetto previsto per domani è Tartos Over the Pure Doll di Andrea Maurizio Campo e Alessandra Marolla. È un'installazione che si terrà in Saletta Multimediale. Il progetto nasce da un dialogo tra linguaggi differenti, il sonoro, il visivo, a partire anche da un vocabolario comune generato da intelligenze artificiali. Quindi il progetto produttivo, che tra l'altro è seguito dalla curatrice Cinzia Pietribiasi, vede come esito una prima formalizzazione rispetto alle tante possibilità che questo tipo di lavoro offre, che cerca di rispondere alla domanda quanto la tecnologia possa sostituire il lavoro creativo dell'artista. E gli artisti hanno scelto di dichiarare sia gli intenti sia il processo stesso di lavoro all'interno proprio dell'installazione, come ad esempio succede per l'app, che in questo caso è il Phonopaper, che leggerà fonogrammi che Alessandra ha raccolto da varie persone, facendo a partire proprio da una domanda. Queste persone hanno risposto alla domanda, questa risposta viene messa all'interno della saletta multimediale, ci sono dei fonogrammi che poi possono essere letti attraverso quest'app, e questo è uno dei processi, per esempio, sul quale ci sono soffermati a livello sperimentale. E questi sono un po' gli appuntamenti, questo è l'appuntamento del 2, poi c'è quello del 16 di dicembre, che è quello conclusivo di cui vi parla Ale. Il 16 dicembre concludiamo questa prima parte della rassegna Collagene Proteine Culturali del 2022, come sempre con una doppia progettazione. La prima è Ava Sistas di Cissi Bassani. Cissi Bassani è una giovane danzatrice e performer del panorama contemporaneo. Lei dichiara nel contenuto insomma, di questa performance, nella sua ricerca, di essere questo appunto uno sfogo come intuitivo di pratiche fisiche che coinvolgono la danza, la voce e in particolare la capacità di ascolto dell'artista nei confronti di tutto quello che attorno a sé accade, a partire dalle persone e non ultimo lo spazio stesso, la geografia che accoglierà la sua performance. Ed è un suolo che non ha una pretesa spettacolare in sé per sé, ma che tende appunto al nascondimento per sottolineare molto le caratteristiche del luogo che accoglie la rappresentazione, quindi è un progetto che possiamo definire pienamente site specific. E poi abbiamo la performance di Matteo Balasso, 90 BPM, che è una performance immersiva di sound design e musica elettronica, in cui anche la componente scenografica distribuita sugli smartphone degli spettatori ha un ruolo essenziale, perché lui renderà proattivi gli spettatori all'interno della sua stessa performance. E i dispositivi sono appunto una sorta di pixel, di un canvas più generale dove proiettare immagini a tempo di musica. Siamo ovviamente, come sempre, molto curiose e curiosi di scoprire scoprire insomma quello che succederà nell'insieme anche il 16 dicembre. Anche in questo caso, insomma, per gli appuntamenti di dicembre bisogna esserci assolutamente, più che raccontarli, e quindi ricordiamo il 2 e il 16 dicembre sempre a DAS in via del Porto 11/2. Niente ragazzi, io vi ringrazio per averci raccontato questi appuntamenti e direi che ci sentiremo nel 2023 per proseguire con l'altra metà di Collagene. Ovviamente non vediamo l'ora, nell'altra metà di Collagene avremo gli esiti della call che abbiamo concluso insomma diciamo dal relativamente poco, di cui comunicheremo appunto il risultato pubblicamente a giorni, e ci risentiremo sicuramente, Rachele. Grazie ancora a Alessandra e Carolina. A tutti voi, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.